fame e la guerra, lascio il deserto, lascio l'amore e il terrore. Su quel gommone senza meta, senza meta su quel gommone, io fuggo e non so dove andare, non so dove andare, fuggo. Poi nuoto per non affogare, per non affogare, yeah, io nuoto, yeah, yeah. La vita è forte come la morte. Stammi vicino, tu non la...